Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Allora iniziamo alla grandissima. Esagerato, buongiorno a tutti. Dove eravamo rimasti? E Mario, ti voglio capolista in un collegio. Abbandona il tuo mestiere. Presente, però scusa, ha detto una cosa ovvia. È Davide che supera Golia. L'autoironia macabra ha qualcosa di sublime. Siamo è l'eco dell'Eterno. È l'eco dell'Eterno. Stiamo in questa trasmissione oramai. Siamo sul Monte Tabor e Luca Telese ascende oramai verso il cielo. Ci sei? Pronto? Oh! Pronto? Ecco, ma da dove parli? Dal Congo, tanto Dio. Siete favorevoli o contrari al fatto che resti Gentiloni? Ma ripeto che io sono del tutto contrario alla continuità di un governo. La prorogazio va a farsi fottere. Cominciare ora questa discussione è un po' curioso. Ma è meglio non dirlo troppo sulla parte finale della parola, sennò poi le rime, capisci? No. La vera storia di Spelacchio. In questo caso siamo di fronte a un fatto un po' surreale, tipico del modo di discutere di questo paese. Faccio così, mi muovo all'ultimo secondo, nessuno dice mai niente, e vabbè, pure quest'anno. Roma Spelacchiona. I boscaioli ti hanno detto, la piantina era bellissima, arriva a Roma ed è brutto. Tremendo. Che ci sarà la possibilità di formare altre maggioranze, si formeranno, altrimenti io credo che dovrà tornare alle elezioni. Mi viene un giramento di scatto, ma che cavolo di servizio pubblico. Paraculaggi. Però è un mondo bello perché è vario, perché arrivano le sorprese, perché tutto è diverso da come lo immaginiamo. Popolo dei già svegli, buongiorno. Voi siete lì in macchina, nel traffico, voi state andando a lavorare, voi state pensando agli addobbi del Natale e fra le grandi abitudini, i grandi riti c'è anche il cinema, il grande immaginario, il divertimento, l'evasione, i cinepanettoni che sono diventati una tradizione e ora sono anche una sfida nelle sale che comincia oggi. Allora saluto con me due De Laurentiis, Luigi e Aurelio, una presenza eccezionale in questo studio. Buongiorno Luigi. Buongiorno Aurelio. Buongiorno. Buongiorno. Che insieme a noi parleranno di questa sfida, ma anche di questo fenomeno di costume. Dovete sapere che in questi giorni sono uscite recensioni di ogni tipo, entusiastiche, commosse, anche critiche, perché ovviamente il cinepanettone è un segno del tempo. E volevo subito chiedere ad Aurelio se è un caso senza precedenti, cioè un produttore e una società di produzione che si incarnano con un genere. Voi siete il cinepanettone, nel bene o nel male siete un simbolo di questa tradizione. Beh, sono 35 anni, dal 1983 ad oggi abbiamo raccontato l'Italia con tutti i suoi cambiamenti, tutti i suoi vizi, perché in realtà poi il cinepanettone racconta i vizi degli italiani. Gli italiani ridevano sempre, ridevano vedendosi sullo schermo, ma non vedevano loro stessi, vedevano sempre lo spettatore che gli era seduto accanto, no? Allora questo a noi ci divertiva molto, ci stimolava. Poi abbiamo raccontato anche come il paese cambiava, perché dopo i mitici anni 60, che erano gli anni del boom economico, gli anni dei Rolling Stones, dei Beatles, della minigonna, così degli affrancamenti anche della donna, sessuali, eccetera, e poi anche della grande rivoluzione negli Atenei, no? Fragole e sangue, grande movimento studentesco. Poi abbiamo avuto gli anni bui degli anni, gli anni 70. Gli anni di piombo, il lutto, il dolore. E poi negli anni 80 subito parte questo edonismo craxiano. Tutti da Milano da bere. Divertire. Tutti che il lusso. Il lusso. E in questo si è inserito Silvio Berlusconi, no? Che a un certo punto è riuscito anche a venire fuori con tutta la sua così dirompente presenza mediatica e poi da creare il berlusconismo, no? Siamo arrivati al velinismo, ai talk show, abbiamo raccontato in lungo e in largo come quest'Italia si stava trasformando. E questo film, lo ricordiamo, girato e montato da Paolo Ruffini, è proprio il trionfo, perché è una super sintesi, è una compressione di tutti i film che sono stati montati secondo alcune categorie, il sesso, la famiglia, no? Sì, ma difatti mi viene da sorridere quando qualcuno dice: ma in fondo potresti vedere gratuitamente tutto ciò su YouTube. Ma non è vero, perché per vedere gratuitamente su YouTube tutto ciò tu dovresti percorrere 80 chilometri di film, cioè 80 chilometri di film sarebbero, ma no, anzi 140 chilometri, sarebbero 80 ore di filmati, ma cioè, tu saresti seduto 80 ore per recuperare quello che Ruffini, con un lavoro quasi da certosino di mesi, 1100 ore di lavoro, ha messo e ha contrapposto scene di film a scene di altri film, facendo più che un medley, proprio una ricostruzione, una riscrittura quasi di una sceneggiatura virtuale, no? Certo. Ma molto molto molto divertente e molto intrigante. C'è un unico precedente, fu un grande successo al cinema, il Super Totò. Beh, che feci sempre io. Era bambino, non scherziamo. Lo feci io. Davvero? Sì, fu molto divertente quando lo presentammo al Festival di Cannes, dove a un certo punto nessuno all'estero conosceva così in maniera importante Totò. E il film fu venduto in tutto il mondo in un attimo. Davvero? Assolutamente. Vedi, c'erano Brando Giordani ed Emilio Ravelli. E anche lui era criticato all'epoca, campione del cattivo gusto, comicità ultrapopolare. Luigi, però voglio chiedere a lei, lei proprio ha avuto un'idea di costruire un villaggio virtuale a Cinecittà in uno studio con un grande scenografo, e lì sarà sempre Natale e si potrà andare a vedere il film addirittura in un cinema costruito per l'occasione? Sì, da ieri è aperto al pubblico dentro gli studi di Cinecittà. Dentro il Teatro di Posa abbiamo costruito un cinema da 450 posti vero e proprio, e al di fuori, appoggiato al Teatro di Posa, un villaggio di Natale dove c'è la neve, degli chalet ricostruiti come se fossimo a Cortina d'Ampezzo. Insomma, è molto divertente, scenograficamente bellissimo, e aperto al pubblico fino al 7 gennaio. Via Lamaro 30. Bene, però abbiamo anche tante cose del giorno, tante notizie calde. Una, fra l'altro, riguarda proprio il calcio, c'è una relazione durissima della Presidente della Commissione Antimafia, la commenteremo fra poco, però subito lo spezzone con cui introdurvi in questa atmosfera: Vacanze di Natale 83, scena Torpignattara. Non voglio dire, ma quel tuo amico Mario che abbiamo incontrato in paese, renditi conto. Pare. Mario è simpaticissimo. Quella famiglia dei Caponi a Cortina. Vino. Non voglio che i miei figli frequentino dei Torpigna. Dei cosa? Ma sì, Torpigna, quelli di Torpignattara. Io l'amico di Luca lo trovo abbastanza paraculo. Diamante, ma come parli? Beh, parlo Torpigna. Scusa Giovanni, insomma vuoi dire qualche cosa ai tuoi figli? Vada. Certo Giovanni, che il giorno che in questa casa avremo il piacere di sentirti esprimere un pensiero, allora sarà troppo tardi. Levategli il vino. E questo è già il primo esempio, no? I Torpigna diventavano una categoria antropologica, lo scontro fra il nord e il sud, insieme anche la lotta di classe, eh? Assolutamente. Ma c'era una direttiva che davate ogni anno all'inizio, che ne so, oggi prendiamo in giro, quest'anno prendiamo in giro i potenti? Beh no, il primo Vacanze di Natale nacque sul ricordo di Vacanze d'inverno, che era un film degli anni 50 girato a Cortina da Camillo Mastrocinque, con Vittorio De Sica, il papà di Christian, e il grande Alberto Sordi. E ci venne in mente, i Vanzina avevano appena finito il così romantico Sapore di sale, no? Che era un film nostalgico sugli anni 60, con tutte le canzoni di quegli anni lì, da Gino Paoli. E a un certo punto a me venne a pranzo l'idea di dire: ma spostiamoci a Cortina, prendiamo l'Anna Pettinelli. L'Anna Pettinelli in quel momento stava a Disco Ring, e prendiamola e facciamoci un grande super spot. Qui non siamo a Disco Ring, ma siamo a Cortina d'Ampezzo, dove sulle piste stanno per scendere degli attori straordinari. Jerry Calà in quel momento era famosissimo, perché veniva da Sapore di Mare, aveva fatto tutta una serie di film con i vicoli, i gatti e i miracoli. E a un certo punto questo film prese sempre più corpo. Carlo Vanzina ebbe l'idea di scatenarsi nella scelta di pezzi musicali formidabili, famosi, Moonlight Shadow di McCulfin. E questa, cioè, la stiamo sentendo. E mal me ne incolse, perché io mi misi lì a cercare di... Pensavo che fosse molto semplice comprare questi diritti, no? E mi resi conto che a un certo punto queste 20 canzoni costavano tre volte il film, messe tutte quante insieme. Sì, una cosa impossibile, incredibile. E invece piano piano raccontando quello che volevamo dire, quello che volevamo fare, ma è un film innovativo, riuscimmo a convincere tutti i discografici, gli editori musicali a venirci dietro. Così nacque la prima grande compilation, perché in fondo le compilation sono nate con le vacanze di Natale. Allora, lei c'è nato dentro questo genere, questa storia l'ha attraversata iniziando come spettatore privilegiato e poi è diventato l'uomo che li fa. Oggi invece, in questo salto, diciamo, di epoca, come lo programmate? Che cosa vi aspettate da un film così, che racconti sempre il tempo, che anticipi delle tendenze? Sì, io avevo 4 anni quando uscì il primo film di Natale nell'83. E poi ho cominciato a essere il testimone delle prime proiezioni dove si sentivano le risate. Bello, le anteprime fatte da mio nonno e da mio padre, quindi quello, diciamo, mi diede la fede vera di voler divertire il pubblico come mio padre e mio nonno hanno fatto per tantissimi anni. Ma penso che oggi sia abbastanza cambiato la società, non è... I film contemporanei forse sono... Siamo contemporanei a raccontare più che le mode, raccontare più il paese, più gli italiani, certo. Essere più vicini, più popolari ancora, più vicini alle masse. Noi raccontavamo il lusso, raccontavamo i sogni, raccontavamo un paese che era ben diverso e che si è trascinato questo James Bondismo per tanti anni attraverso le decadi. E oggi forse il paese è cambiato parecchio. Questo sicuramente, quindi anche il racconto di un cambiamento. Allora, iniziamo con alcune notizie di oggi. Applauso in aula per l'approvazione del biotestamento, una legge che ha commosso persino l'Abbonino, questo voto come se fosse un passaggio di epoca. Il Senato approva. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 5, 13, 87, 177. Oh, parliamo tanto male della politica, è una legge che è stata tanto attesa e che alla fine ha diviso meno di quanto non sembrasse, anche se qualcuno dice che c'è rischio di nazismo addirittura, di eugenetica. Sentiamo Giovanardi. Questa è la deriva verso cui andiamo, la deriva storica del positivismo del Nord Europa, fatto proprio da tutta la scienza medica tedesca alla fine degli anni 30, e la storia si può ripetere. Questa legge apre la porta perché succeda anche in Italia. In Belgio, in Olanda e in altre nazioni europee li sopprimono. Io sono dell'idea che invece sopprimerli ci riporta alle barbarie del secolo passato. E sentite quelle lacrime, la Bonino contenta e commossa. Il cammino è sempre lungo, ma certo oggi è una giornata in cui uno ha il cuore in gola, ce l'ha, perché poi peraltro in tribuna eravamo con la mamma di Luca, con la vedova di Luigi Welby, insomma carne e ossa, dolore e sangue, al di là delle disquisizioni di vario tipo. Ecco, il cinepanettone non è mai stato politico perché ha fatto divertire tutti, però dentro alla fine aveva un'idea di grande, quest'idea di grande modernità, rompeva i cliché, affrontava i temi scabrosi che magari un cinema più attento, più rispettoso non affrontava. Si può ridere di tutto? Ma secondo me sì, perché bisogna avere quella capacità di non prendersi sempre sul serio. Perché altrimenti la vita diventa piena di ostacoli, mentre invece l'umorismo ci aiuta ad affrontarla in maniera, non dico leggera, ma con quel senso di autocritica innato che ognuno di noi deve portare come bagaglio culturale per saper discernere il giusto dal non giusto. C'erano battute sugli arrivisti, sugli yuppie, sulle donne, sugli omosessuali. Lei ha mai detto su un copione, no, adesso stiamo esagerando qui, metto una censura? No, non mi è mai capitato, anzi io accelleravo, io spingevo sull'acceleratore perché mi divertiva creare un po' di scompiglio, no? In questa società sempre molto ingessata, molto finta. Ecco, diciamo che la società moderna ha dei pregi e dei grandi difetti. Il più grande difetto è che è una società finta, fatta di finti formalismi, dove la gente assolutamente si comporta in maniera per bene. Ecco, io non amo i perbenisti, no? Quindi il cinepanettone, cioè, come dissacrazione del perbenismo. L'educazione è tutto ciò che fa piacere agli altri meno che a noi stessi. Bene, allora guardate che cosa è successo ieri sulla commissione banche, l'audizione di Vegas che dice: ho incontrato Marielena Boschi. Ovviamente la testimonianza e la risposta della Boschi a stretto giro di posta dalla Gruber. Su Banca Etruria, sì, ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione perché ad avviso del ministro ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse in qualche modo incorporata da Banca di Vicenza. Detto questo, però, è chiaro che io non potevo dire niente perché non è competenza di Consob intervenire sulle scelte di aggregazione delle banche. E sentite la Boschi cosa ha risposto. Lo ha ribadito lo stesso Vegas in commissione, ha detto che io non ho mai fatto pressioni, che non sono intervenuta chiedendo niente rispetto alla possibilità di bloccare fusioni e sinceramente non c'è conflitto di interessi, non solo perché l'ha detto l'antitrust, ma perché mio padre non ha avuto nessun trattamento di favore. Qual è il favore nell'averlo mandato a casa al pari degli altri membri del CDA? E ovviamente su questo leggeremo dopo tante pagine, tanti titoli, tanti dibattiti. E Bersani propone un governo, pensate, fra PD e 5 Stelle oppure fra la sinistra e 5 Stelle. Io so questo: se si fa una soluzione di establishment, la crisi si approfondisce. Ma io partirei da un centro-sinistra che prende consapevolezza, non chiuderei il dialogo con nessuno sulla base di 4-5 cose da fare. Mi si chiede sempre i 5 Stelle, ma io sono quello dello streaming. Se fossero disposti loro a ragionare, vuol dire che sono cambiati loro, mica sono cambiato io. Allora, siamo qui, stiamo raccontandovi l'Italia del presente e l'Italia del passato attraverso la lente deformante del cinepanettone. Era, come dire, l'Italia vera, no? Un tempo c'era un dibattito risorgimentale: è peggio il Parlamento o peggio il Paese? Se dovessimo chiedere, è peggio l'Italia vera, quella sottotraccia, quella ipocrita di cui parla De Laurentiis, o l'Italia raccontata sullo schermo? Che cosa risponderebbe Luigi? Ma quella vera. Ah sì? Sì? Allora siamo messi malissimo. Davvero il cinepanettone perché sdrammatizza, perché sono gaglioffi e sono simpatici? Ma no, perché ormai è radicato nella gente il non voler prendere coscienza di come si è, no? È come quando tu ti inventi un personaggio e alla fine finisci per crederci, no? Questo è un po' l'italiano. L'italiano per sopravvivere si è dovuto inventare un personaggio. E quindi il personaggio è meglio della realtà. Bene, sono concordi, abbiamo un'interruzione pubblicitaria, torniamo fra poco con la nostra rubrica Già Svegli e con questo dibattito che, come vedete, attraversa generi e interpretazioni della realtà. Fra poco, strada. Ma Santa Cia, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. Già svegli. Sono sveglia perché mi devo preparare per andare al lavoro. Sono sempre sveglia a quell'ora perché sono una vecchia signora di 88 anni. Buongiorno, io sono già sveglio per guadagnare 850 euro al mese. Sono sveglia dalle 5:15 alle 6 perché faccio l'insegnante, faccio la mamma, faccio la moglie. Sono già sveglio perché sono arrabbiato. Sono già sveglio perché devo ancora andare a dormire. Stamattina ero già sveglia perché mio partner fa i turni e perché penso e spero di essere rimasta incinta stanotte. Sono sveglia perché sono vecchia e come tutti i vecchi dormo poco. Sono già sveglio per dare ai miei clienti una buona tazza di caffè, una brioche, un po' di burro e marmellata. Sono già sveglio perché la mattina mi piace fare un po' di jogging prima di andare all'università. Sono sveglio perché odio Telese. Sono sveglia perché mi sveglio sempre a quest'ora e mi piace svegliarmi così. Anche questo. Mi sento, mi incazzo. Sono già sveglia perché devo accudire i gatti. Sono sveglio perché, non essendo un politico, devo lavorare. Allora, anche questo è un racconto dell'Italia. Si potrebbe fare un cinepanettone partendo da questa nostra lente. Noi chiediamo la testimonianza del perché questa Italia è sveglia ed esce fuori di tutto, da qualunque punto di vista. Beh, sociale. Bellissimo. Sono sveglio perché non sono un politico e devo lavorare. Questa è già satira, è già invettiva, è già cattiveria. Vedi che loro scrivono loro stessi il cinepanettone. È vero, è vero. Perché i pendolari hanno tanto tempo per pensare, riflettere, sono un ceto importante di questo paese. E quindi il pubblico popolare si è anche molto ritrovato in questi cinepanettoni che mettevano alla berlina tutto un mondo criticabile, no? Tu immagina questo generone romano che si impossessava di Cortina d'Ampezzo, dove non c'entrava proprio nulla, no? E dove c'erano i veneti incazzatissimi e dicevano: fora i romani dal Veneto, no? Ma Luigi, alcuni hanno accusato il cinepanettone in qualche modo di fare una caricatura della romanità che piaceva al pubblico del nord, perché diceva i buzziconi, i cafoni, gli arrivisti sono romani, sono burini, è vero? Ma questo l'ho sentito per anni. In verità il cinema, tanto cinema comico degli ultimi 35 anni, è stato anche molto romano. Carlo Verdone e tanti altri, che comunque la romanità evidentemente è stato un linguaggio comico che si ritrova in tantissime commedie. Poi sì, c'è il milanese, ma il milanese ha sempre avuto meno protagonismo in qualche modo. Ci sono stati più romani al capo del box office, quindi secondo me... Però perché una polemica... erano messi alla berlina, Aurelio, erano presi in giro, è il nord che rideva della capitale del sud, no? Sì, in qualche modo sì, ma erano contrapposte, no? C'era sempre, se tu ti ricordi, Totò e Peppino quando vanno a Milano, la famosa scena, certo, con il pizzardone, no? Che guida, la dice lunga. Allora, ancora una cosa importante nella cronaca: Mirabelli su Donnarumma contro Raiola, sta diventando una telenovela. Ma vi sembrerà strano, ma io ci ho parlato fino a un minuto fa, ma Gigi è un ragazzo eccezionale, non ha mai espresso la volontà di andare via. Certamente c'è qualche signore che vuole magari ad arte organizzare qualcosa, ma noi tuteleremo il Milan in ogni sede senza problemi. C'è qualche signore che sta diventando più showman che altro. La rabbia del Milan contro Raiola, e qui devo chiedere al presidente di un grande club come sta seguendo questa vicenda, con curiosità, con soddisfazione, con stupore. Sai, nel calcio ti puoi aspettare di tutto, come in vacanze di Natale, no? Ci sono queste appendici dolomitiche, no? Dove tu scendi a valle e sali sulle vette con grande, come se fossi su delle montagne russe, per cui oggi si dice una cosa, domani se ne dice un'altra, il contrario di tutto. Quindi, poiché il protagonismo è sempre il dio successo, no? Inseguito senza mai un'etica, no? E quindi un giovane si può bruciare, anche un giovane campione in questa Ma sera. Sai, poi i giovani campioni non è che si bruciano, dipende dal loro rendimento sul campo. Però perché poi tutto quello che conta è... Ma sai, lo stress è psicologico. Tu credi che effettivamente ormai la società... credo che Donnarumma questa cosa gli pesi, ha pianto in campo, consolato da Bonucci. Ma forse a Donnarumma gli pesa di più di dover parare davanti a una porta così, dove gli altri 10 lui magari non li considera eccezionale come chimica, perché questa squadra non ha avuto tempo di plasmarsi, no? Vedi che hanno dovuto cambiare superiore. Addirittura allenatore, hanno preso un allenatore con una grandissima grinta, con una grandissima personalità, Gattuso, no? Una interpretazione che ancora non era apparsa sui giornali, cioè il fatto, il campione che si sente diverso dagli altri. Non è che si sente diverso, migliore. Però lui forse magari è rimasto pensando di avere una vita più facile durante il campionato. In realtà poi questo è un campionato molto duro, complicato, certo, molto duro, dove su in alto ci stanno cinque squadre che se la contendono. Allora Luigi, lei è il più grande esperto, anche filologo del genere. La celebre scena della battuta in cui i genitori De Sica, tornati al festone di Capodanno, lo trovano a letto con un uomo, sentiamola. Mamma, il mondo va avanti. Tu sei rimasta negli anni 50. Guarda come sei pettinata. C'è ancora il testone da matta? Eh no, eh sì, e poi la colpa è vostra. Ma avete fatto viaggiare? Ma avete mandato nei collegi svizzeri? Eccola là! Adesso mi trovate a letto con Leonardo Sartolin. E poi, mamma gioca a Gina al circolo carottieri e se veste da Versace? Tu metti l'orologio al polso come Gianni Agnelli. E io vado a letto con Leonardo Sartolin, perché se può? No, non se può! Non se può! Comunque è tutta colpa tua! Ah sì, eh? È colpa mia se ci abbiamo il figlio Frocio! Frocio! Moderno, mamma, ecco, moderno. Non Frocio ma moderno. Questa è proprio una delle cose in cui il cinepanettone, no, cattura una modernità molto prima dello sdoganamento, dei coming out, 83. Sì, che poi tra l'altro cioè moderno, ma poi finiva con bisex, no? Che quindi penso che per l'epoca era ancora più divertente, moderno, ed è comunque un linguaggio utilizzato da, io mi ricordo, a 18 anni. Tutti parlavano ancora di queste battute, parlavano nel linguaggio questo contemporaneo, crudo. Ma ancora oggi al cinema, quando arriva la scena, quando l'abbiamo vista l'altro giorno, tutti anticipano la battuta moderna. Eppure questo, anche questo è un gioco. Attenzione, Vacanze di Natale 90, incontro di Sica Boldi, Super Cafoni. No, c'è la pubblicità, dopo la pubblicità.